Ferry Boat, in viaggio verso l'economia sociale. En Sargante, il traghettatore, per questa puntata che apriamo di Ferry Boat, che apriamo subito con una notizia dall'Aquila. Sono sempre notizie importanti quelle che arrivano dall'Aquila, segni di una rinascita sempre più evidente. Oggi apre all'Aquila la Casa del Volontariato e dell'Associazionismo, che è un progetto pensato e realizzato dal Centro di Servizio per il Volontariato dell'Aquila, in collaborazione anche grazie quindi al contributo del Coordinamento Nazionale dei Centri di Servizio per il Volontariato. E un'iniziativa che nasce 2 anni fa con la raccolta dei fondi, che oggi trova finalmente la sua concretizzazione. Domani è anche la giornata di chiusura di un festival, direi tanto importante quanto singolare. Si chiama Architettura in Città e segna l'incontro fra i comuni e i soggetti culturali dell'area del Torinese. Ce ne parla Riccardo Bedrone, presidente dell'Ordine degli Architetti della provincia di Torino, che ha ideato questa manifestazione. Presidente, buongiorno. Che cos'è Architettura in Città? Architettura in Città è un insieme di iniziative che sono state organizzate da tanti soggetti diversi, quasi tutti operanti nel mondo della cultura, che hanno accettato la proposta che noi facemmo non tanto tempo fa, a febbraio, di mettere insieme le forze, ciascuno secondo il proprio ambito di lavoro, le proprie specificità, per parlare di architettura ai torinesi, alla gente di Torino. Noi pensavamo di mettere insieme 4-5 proposte, in realtà ne sono venute fuori 120. Organizzate da più di 70 soggetti, quindi da questo punto di vista, cioè della volontà di mettere insieme le poche risorse che ci sono a disposizione, è stato già questo un successo. Quindi la manifestazione, Presidente, non avviene in un luogo specifico, ma è distribuita nel territorio della provincia di Torino. Assolutamente, assolutamente. Inizialmente pensavamo di farla a Torino, anche perché è la prima volta. Poi ci siamo detti, ma spostiamoci il più possibile. Intanto noi siamo un ordine provinciale, quindi proviamo a vedere. E così è stato, abbiamo coinvolto i comuni della cintura e si sono subito resi disponibili, comuni addirittura fuori della provincia di Torino che hanno aderito, Cebiella per esempio, tra gli altri. Ecco, parliamo di cinema, teatro, danza, leggo dalle indicazioni che ci avete dato, letteratura, fotografia, questo vuol dire che la provincia di Torino diventa un grande palcoscenico dove ci si esibisce. Ecco, questo, l'obiettivo di questa architettura in città è quello di ricreare un rapporto forse violato, forse un po' manipolato dalla cultura automobilistica, fra l'uomo, la donna e la città. Direi di sì, però non c'è nessuna polemica in tutto questo, c'è soltanto il tentativo di renderla un pochino più accessibile. Non farla sempre considerare una cosa che trattano soltanto gli architetti o gli amministratori. È per questo che ci abbiamo messo dentro il rapporto che c'ha, diciamo così, la capacità creativa degli architetti con tante altre forme espressive, per cui si parla appunto di danza, di fotografia, di pittura, di design. In fondo la vita di tutti è condizionata da questa capacità, se c'è, di rendere la città più bella attraverso dei buoni progetti. Infatti, senza, obiettivamente, come precisava anche lei, senza fare nessuna polemica, non ce n'è bisogno per una volta, certo è che questo vuol dire in qualche modo riabilitare il ruolo dell'architettura nella relazione con chi abita le città, un ruolo fondamentale. Esattamente, proprio così. Torino poi per anni è stata abituata, forse perché era la città fondata sul lavoro, a non occuparsi di aspetti più legati invece alla qualità dell'ambiente costruito, della propria abitazione, del proprio quartiere. Invece che negli ultimi 15 anni, a partire dall'approvazione del suo piano regolatore, l'inizio dei grandi lavori, poi le Olimpiadi e gli ultimi avvenimenti, c'è stato uno spostamento di attenzione progressivo verso questi aspetti. E poi c'è anche molta voglia di girare. I torinesi di conoscere, sono riscoperti anche. Sì, sì, esattamente. E di riscoprire. Grazie al Presidente Riccardo Bedrone, quindi Architettura in Città a Torino. E chiudiamo con un'altra notizia culturale, anche se singolarmente culturale, i Castelli di Sabbia, un grande gioco che però sfocia spesso in manifestazioni artistiche. È il caso della spettacolare gara di Castelli di Sabbia nel Cilento, che si conclude domani nella spiaggia della Marina Piccola, una grande mostra di castelli incredibili di sabbia con soggetto ovviamente la tutela dell'ambiente e del mare in particolare. È tutto per la puntata di Ferry Boat di oggi. Ferry Boat @radio24.it è l'indirizzo dove potete segnalare le vostre iniziative. In redazione Anita Panizza, in regia Carmelo Lauricella. Alla prossima.